La BCE si conferma sempre salda nella sua strategia, a dispetto di quanto si è detto nell'ultimo anno, e cioè rimane invariata la politica monetaria della BCE, che è quella appunto che è caratterizzata dal quantitative easing, cioè rimangono invariati i tassi di interesse praticati dalla BCE, che sono praticamente nulli se non negativi per quanto riguarda le riserve in eccesso, rimane inalterato rispetto alle comunicazioni precedenti il livello degli acquisti dei titoli di Stato praticati sul mercato secondario, quindi rimane sostanzialmente tutto inalterato. E non è interessante questo, ma è interessante soprattutto capirne le motivazioni, perché per tutto il 2017 ci si è aspettati che comunque la BCE andasse verso una riduzione dei suoi acquisti di titoli di Stato e che si andasse verso un incremento dei tassi di interesse sui titoli di Stato, quindi di conseguenza quelli praticati dalla Banca Centrale Europea, e un po' sulla scia di quanto invece ha realizzato la Federal Reserve nello scorso anno. Ma perché questo non è successo? Ce lo spiega Draghi, diciamo, nell'ultimo discorso della scorsa settimana, di nuovo, ancora una volta, il fatto che l'inflazione non è assolutamente tornata al livello del 2%, che è invece il punto di riferimento per l'azione della BCE, che è peraltro scritto nel suo statuto ed è considerato il livello giusto per la stabilità dei prezzi. Perché questo non è accaduto? Beh, nonostante una ripresa del credito, che c'è stata, diciamo, una leggera ripresa del credito nel 2017, che era uno degli obiettivi che si poneva la BCE nel realizzare questo tipo di politiche monetarie, diciamo, non convenzionali, comunque l'indice dei prezzi al consumo armonizzato, che è ciò che in qualche modo definisce il raggiungimento di quell'obiettivo, non è arrivato al 2%. Ma non solo quello, nemmeno le attese, le aspettative, diciamo, di inflazione, che vengono calcolate un po' sulla base di come si comportano i mercati, di quali tipologie di titoli acquistano e in un certo senso cercano di cogliere quanto i mercati scommettono che prezzi aumenteranno nel futuro, neanche queste sono tornate a livelli accettabili che consentano alla BCE di ritirarsi e di innalzare i tassi di interesse. Le motivazioni sono legate al fatto che l'Eurozona in questo momento e anche l'Italia hanno realizzato dei surplus commerciali quasi storici, nel senso che negli ultimi anni si sono accumulati sempre di più fino a diventare praticamente il motore principale della crescita non soltanto, diciamo, dei paesi centroeuropei, ma anche dell'Italia stessa, ma è stato un po' l'unico canale di crescita sostenuta dell'intero blocco, perché come purtroppo abbiamo sperimentato anche in questi ultimi anni, diciamo, la domanda interna, soprattutto a causa delle politiche di austerity, è stata la maggiore vittima, proprio perché anche se non era voluto, non era in qualche modo esplicito il fatto che il quantitative easing avrebbe favorito le esportazioni, il risultato di queste politiche è stato quello di favorire il deprezzamento dell'euro nei confronti del dollaro negli anni precedenti, e questo ha enormemente favorito le esportazioni italiane e dell'intera eurozona, anche in misura maggiore quelle tedesche. Però cosa accade? C'è una tendenza molto semplice per quanto riguarda l'economia internazionale, cioè il fatto che quando un paese o un'intera area economica realizza per tanti periodi di tempo un surplus commerciale, cioè vende all'estero più di quanto importa, il resto del mondo domanda la valuta di quel paese o di quell'area economica più di quanto quell'area domandi la valuta degli altri, e questo, per una banale legge di domanda e offerta, fa sì che l'euro si sia costantemente, diciamo, negli ultimi periodi apprezzato nei confronti del dollaro. E rispetto a questa dinamica che riguarda appunto il commercio internazionale c'è poco che la BCE possa fare, anche perché non è mai stata, diciamo, una politica tipica del nostro istituto di emissione quella di manipolare in qualche modo il cambio, come invece fanno da un certo punto di vista altri paesi che puntano esplicitamente, strategicamente sulle esportazioni. E quindi di conseguenza questo significa che, nonostante ci siano fortissime pressioni politiche, soprattutto chiaramente da parte tedesca, per una fine del quantitative easing, la fine del quantitative easing sembra un evento ancora lontano, e come ha ripetuto Mario Draghi, insomma, c'è da attendersi che alla fine del 2018 vivremo ancora in un mondo di quantitative easing e non si sa cosa accadrà nel 2019, nel quale peraltro è previsto il cambio della guardia, perché il mandato di Mario Draghi è destinato a scadere. C'è un aspetto politico anche importante, cioè il fatto che dal momento che l'euro comunque continua ad apprezzarsi anche in questi giorni nei confronti del dollaro, le dichiarazioni dei policy maker americani, come quelle del segretario di Stato e quelle del ministro del Tesoro, hanno portato portato comunque i mercati a ulteriormente credere nel deprezzamento del dollaro, proprio perché le affermazioni hanno riguardato il fatto che il governo americano vede di buon occhio un deprezzamento del dollaro per favorire le esportazioni e per ridurre le importazioni. Da un certo punto di vista la strategia è quella di evitare di dipendere dall'estero, per quanto lo si è fatto negli ultimi decenni per gli Stati Uniti. Naturalmente sarà difficile che gli Stati Uniti possano davvero realizzare questa strategia, ma tutto ciò è stato percepito dai policy maker europei come una sorta di minaccia di guerra commerciale, fino al punto di spingere Draghi a dire che, in qualche maniera molto velata e senza citare esplicitamente il paese, c'erano stati alcuni paesi che sono in qualche modo venuti meno agli accordi in sede di Fondo Monetario Internazionale, ad accordi di desistenza rispetto a una questione di guerre commerciali. Quindi sullo sfondo, sulla scia insomma di questa mancata fine del quantitative easing, si profila anche uno scontro geopolitico che rimane sotto traccia, logicamente, ed è limitato alla sfera strettamente della politica monetaria, ma che comunque inizia ad emergere in maniera pesante. Potremmo utilizzare il comportamento della BCE per capire se le dichiarazioni sulla ripresa che è partita o meno sono vere? Assolutamente sì, ed è un esercizio che si dovrebbe davvero fare, e lo si dovrebbe fare in tutti gli aspetti del dibattito, proprio perché se da un lato siamo stati abituati in questi mesi a sentire che la ripresa c'è, che di fatto in qualche modo la crescita del PIL italiano, seppur debole, lo abbia dimostrato, se così fosse vero e se questo fosse un'aspettativa stabile per i prossimi anni, dovremmo attenderci insomma dichiarazioni molto diverse dalla BCE. Invece, come dice giustamente, questo mancato cambiamento di politica ci fa capire che probabilmente a Francoforte sanno che le nostre economie non sono così sane. Questo peraltro è testimoniato anche dagli ultimi numeri relativi all'occupazione, che non sono così rosei come i titoli di giornale ci hanno mostrato, proprio perché a fronte di una crescita degli occupati c'è stata anche una forte crescita degli inattivi, e questo vuol dire che molte persone escono dalla forza lavoro e smettono anche di cercarlo, purtroppo, il lavoro.